Linee d'ombra di Matteo Caccia. Diciamo, io credo di essere guarita per amore, proprio per amore suo. Quella corda che ho visto era quel suo amore così incondizionato. Una volta a casa mi immergevo nella rassicurante razionalità della logica, così lontana dall'incontrollabile e inquietante complessità della vita reale. Storie di padri premurosi e di cani fidati in una puntata che si intitola Tenere in vita. Cosa è successo in macello? C'è Isabel che ha chiamato i soccorsi e io sto dirigendomi lì e siamo proprio davanti a sta cavolo di depressione. Porca miseria! E lei e Samuel sono andati molto a sud e erano veramente posizionati male. Io sono stato bello a nord in sti giorni, ho perso 100 miglia, me ne sono fottuto, però era una buona posizione, ero bello tranquillo. Adesso il problema è trovarla, che non è mica uno scherzo, cacchio, trovare una barca ribaltata in mezzo al mare. Tra una decina di ore dovremmo essere nel centro della depressione, quindi in vento si calma. Dovremmo anche essere abbastanza vicini alla zona dove ci dovrebbe essere Isabella. Speriamo, guarda, che Dio me la mandi buona. Questo è un passaggio che è diventata storia della nautica, ma forse è diventata storia a prescindere, cioè il momento in cui Giovanni Soldini, che all'epoca è un giovanissimo già vincitore di moltissime regate, rappresenta la vela solitaria italiana, insomma a quell'epoca decide di mollare la regata, cioè di fare un detour per andare a salvare una collega, un'amica, una concorrente tra l'altro, questa regata che però si è ribaltata in mezzo all'oceano. Lei si chiama Isabelle Autissier e lui compie un gesto per la quale avrà onorificenze, meriti, verrà insignito di nomine, di cavalierati, perché è un gesto molto coraggioso ma soprattutto di enorme umanità, cioè si mette a cercare una barca rovesciata che è già difficilissima da trovare, è in condizioni di meteo terribili, ha delle latitudini incredibili e la ritrova. E io mi ricordo il passaggio del racconto di Giovanni Soldini in cui quando arriva la chiama a gran voce, deve stare lontano ovviamente perché il rischio è che la sua barca si scontri con quella causando danni anche alla sua, e alla fine la chiama lanciandole un martello sullo scafo perché lei era al sicuro all'interno di questo scafo ribaltato, tutto sigillato, tutto ermetico, quindi era l'asciutto per lo più, ma non sentiva. E quando lui le lancia questo martello, lei esce. La scena dopo di questo video sono loro due che festeggiano, lei che beve una bevanda calda con un tutone addosso, poi loro due che festeggiano al tramonto sulla prua della barca di Soldini che li sta portando a casa. Si intitola Tenere in vita la puntata di oggi ed è il motivo per cui abbiamo aperto così. Vi raccontiamo diverse storie. Un pochettino più del solito. La prima è la storia di un figlio salvato da un soffocamento. Ne abbiamo già parlato, ci teniamo a farlo. L'abbiamo fatto con Paolo Guarnaschelli qualche settimana fa, che oltre ad essere un nostro ascoltatore è anche un esperto di corsi di primo soccorso, li tiene e li porta in giro per l'Italia anche in questo momento difficile. Ci ha mandato una storia di un corso all'interno di un carcere con dei carcerati. Ecco, io ci tengo a dirlo, vi raccontiamo questa storia, ma probabilmente è di qualche anno fa, cioè è del 2000, è di 20 anni fa, e probabilmente si faceva così, le regole non erano ancora chiare. Ma quando si cerca di salvare qualcuno che sta soffocando, l'ultima cosa da fare è infilargli le mani in gola, perché quello è il rischio più grande di infilare ancora più profondamente quell'oggetto, quel cibo che gli sta ostruendo le vie respiratorie. E poi gli racconteremo un'altra storia, la storia di una ragazza che viene salvata letteralmente da suo padre perché lei ha preso una china terribile per la sua salute e per la sua vita. E poi racconteremo di un cane che tiene in vita il proprio padrone andando ad aspettarlo alla fermata dell'autobus. E non è il film che conoscete, non è Acico, è una storia tutta italiana. Insomma, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Correva l'anno 2000, una giornata primaverile infrasettimanale come un'altra. Si corre spediti in moto, da poco comprata, dall'ufficio a casa in 5 minuti. Un boccone in compagnia di mia moglie e del mio figlioletto per riprendere come di consueto alle 14.30 la mia normale giornata lavorativa. A tavola appunto io e mia moglie e mio figlio di circa 2 anni, seduto nel seggiolone di legno come nella quotidianità di sempre, conversando e scambiandoci i soliti commenti più o meno banali. Quella giornata presente anche un'amica di mia moglie, intima, molto vicina, madrina di Damiano, appunto all'epoca mio unico figlio. Avevo 32 anni, giovane papà, inesperto e naturalmente apprensivo. Mia moglie, giovane mamma, analogamente a me, inesperta e naturalmente apprensiva. Daniela, la citata amica, giovane ragazza, mia coetanea, signorina. Insomma, tutti giovani inesperti. Quando, d'improvviso, un colpo di tosse. Sì, un lieve e chiuso colpo di tosse. Damiano, come tante altre volte, si ingozza. Ha mangiato un tozzo di pane, un mollicone recuperato a tavola, un gesto usuale, fatto tante altre volte. Fa un profondo respiro, un colpo di tosse e via, liberi, al limite 2 lacrime di spavento, ed è finita lì, è già successo. Ma questa volta il colpetto di tosse giusto, quello liberatorio, non arriva. Non fuoriesce nulla. Ci accorgiamo subito che qualcosa non va come le altre volte. Lo prendo in braccio, gli do qualche colpetto sulla schiena in modo lieve, cerco di fare un massaggio più vigoroso sul ventre, allora lo capovolgo per cercare di far fare una reazione al fine di liberare le vie respiratorie. Niente. Mia moglie è disperata, corre in balcone nel panico per sfuggire all'impossibilità di agire. Damiano, io lo tengo in braccio, sono incapace di qualsiasi manovra risolutiva, sono disarmato. Penso di correre al pronto soccorso vicino, ma è troppo lontano per arrivare in tempo. Il colore del viso di mio figlio è già violaceo, è cianotico, è inerme, è quasi collassato. È un corpicino cicciottello e adagiato tra le mie braccia. Apro il portoncino dell'appartamento disperato. L'amica Daniela mi fa strada, anche lei è disperata, anche lei prova a liberare la gola, ma senza risultato. Sul pianerottolo, pronti ad entrare in ascensore, ci viene in mente come un fulmine, e dico ci viene perché non ricordo più, non so se viene in mente a me o a Daniela, il momento era veramente di totale confusione, ci viene in mente di battere con i pugni al portoncino di rimpetto al nostro. Il vicino è un medico che raramente a quell'ora è a casa, ma per la disperazione qualsiasi tentativo va fatto. Si apre la porta e c'è lui, Luigi, amico di condominio non solo, con il quale ci si scambia spesso una battuta, ci si beve un caffè, una risata. Luigi, sulla 50ina, capello bianco, altezza corporatura media, padre di 2 figli, già ragazzi, è anestesista da tanti anni presso l'ospedale della città. Mi toglie letteralmente Damiano dalle mani, riesce a estrarre con rapidità un primo pezzo di mollica, subito dopo un altro pezzo. Damiano fa un colpo di tosse sordo, forse indotto anche da una vigorosa pacca sulle spalle, non ricordo. Un altro colpo di tosse, questa volta aperto e liberatoria. Un pianto forte e soprattutto il cambio di colore del viso mi rassicurano che mio figlio è salvo. Nei miei occhi è indelebile quella scena. E nella mia memoria è indelebile quell'episodio che racconto sempre quando capita, proprio per tenerlo in vita, in memoria. Incontro Luigi saltuariamente, nel frattempo non siamo più vicini di casa, la nostra amicizia è rimasta sempre la stessa. La mia gratitudine nei suoi confronti è rimasta immutata ma silenziosa, inespressa, ma lì, nel cuore, presente come una vecchia cicatrice. She says wake up, it's no use pretending, I'll keep stealing. Breathing her, birds are leaving over autumn's ending. One of us will die inside these arms, eyes wide open, naked as we came. One will spread. Ecco, ci teniamo a ricordare, soprattutto ci teniamo, l'abbiamo già detto, a ricordarlo dopo che abbiamo sentito l'amico Paolo Guarnaschelli un paio di settimane fa, che ci raccontava una storia in cui con la sua associazione e con l'associazione Salvagente andavano in un carcere per insegnare le tecniche di primo soccorso. Ecco, lui lo dice sempre, probabilmente questa è una storia di qualche anno fa, e qualche anno fa non c'erano ancora le tecniche, non erano chiarissime, che l'ultima cosa da fare è infilare le dita in gola a una persona che si sta soffocando, perché il rischio è di mandare ancora più giù quello che è lì e che sta ostruendo le vie respiratorie. Ci sono delle tecniche ben precise, la manovra di Heimlich, ed è il motivo per cui lui dice, per cui io sostengo che dovrebbero essere obbligatori questi corsi e dovremmo farli tutti quanti, perché appunto la vita, anche la vita di un bambino in un banalissimo pranzo infrasettimanale, può essere salvata grazie a una di queste manovre. Grazie per questa storia, la puntata si intitola Tenere in vita, e ora abbiamo un'altra storia da raccontarvi. È la storia di Barbara, una nostra ascoltatrice, che ce la racconta molto dettagliatamente, ed è la storia di come da ragazzina, durante un momento molto complicato della sua vita, suo papà l'ha letteralmente tenuta in vita. State con noi. Sono nata in un mondo perfetto. Un'infanzia felice e spensierata, in un mondo in cui proprio non riuscivo a trovare un purché minimo difetto. Speriamo che l'impatto non sia troppo duro, osservava di tanto in tanto mio papà, il mio adorabile, insostituibile, splendido papà. Da sempre e per sempre il mio riferimento. Io non capivo, non potevo, non c'erano falle nel mio mondo, era inaccettabile, indiscutibilmente. Poi è arrivata la preadolescenza, strappandomi senza pietà gli occhiali rosa della mia infanzia. Fui allora in grado di vedere distintamente tutte le sfumature di grigio fino al nero più intenso che invadevano ogni angolo dell'esistenza, rendendola precaria, spesso difficile e angosciante. Malattie, violenza, cattiveria, miseria avevano improvvisamente fatto irruzione nel mio mondo perfetto, devastandolo furiosamente. Ma io quel mondo lo avrei chiuso fuori. E quindi smisi di mangiare. Il suo cibo io non l'avrei fatto entrare, il cibo di quel mondo. 50 kg, 45, 40, 33. Il mio rabbioso e disperato dolore mi impediva di percepire l'angoscia dei miei genitori e i loro continui vani tentativi di farmi uscire dalla subdola malattia dell'anoressia nervosa. Del resto non stavo facendo male a nessuno. Continuavo a rispettare scrupolosamente ogni regola di buona condotta. Una brillante studentessa con ottimi rapporti all'interno della classe, dove peraltro trascorrevo gli unici momenti di vita sociale. Una volta a casa mi chiudevo in camera, dedicandomi prevalentemente allo studio della fisica e della matematica. Mi immergevo nella rassicurante razionalità della logica, così lontana dall'incontrollabile e inquietante complessità della vita reale. L'unico a regalarmi brevi istanti di speranza era mio papà. Non perdeva mai il suo ottimismo, la sua curiosità e amore verso la vita, nonostante tutto. Senza mai nascondersi le avversità della vita, le affrontava a testa alta, con ottimismo, consapevole che i momenti belli sarebbero arrivati e lui li avrebbe assaporati fino in fondo. Ai miei occhi rappresentava la prova vivente che qualcosa del mio meraviglioso mondo in fondo era sopravvissuto e che forse non tutto era perduto. Mio papà era un ottimista, diceva ma no, ci uscirà. E quindi all'inizio non dava tanto peso e poi invece ha visto che soffrivo e cercava senza inganni di parlarmi. Quando io dico che è stato ed è rimasto per sempre il mio riferimento, è forse ancora qualcosa di infantile, me lo chiedo qualche volta, è ancora così. Lui è una persona estremamente equilibrata, che dice che la vita è difficile e dura, ma dice anche che regala dei momenti bellissimi. E ti convince perché lui se li gode quei momenti, si gode tutte le piccole cose, è curioso verso la vita, verso le persone. E infatti una sera mio papà entrò nella mia camera. «Possiamo parlare?» mi disse. «Certo, papà», risposi. Con lui parlavo sempre volentieri. Teneva tra le mani quella sera un grosso libro, lo aprì e prese a leggerne ad alta voce alcune pagine. Venivano descritti con scientifica precisione gli effetti collaterali dell'anoressia nervosa. Non erano le parole, ma il tono della sua voce che mi colpì profondamente. Era diverso, privo di energia. Procedendo nella lettura, si fece a poco sempre più roco e flebile fino a spezzarsi, rotto da un nodo in gola diventato troppo grosso di fronte alle parole, fino a portare a danni irreversibili. Allora alzai lo sguardo e lo fissai negli occhi. Quegli occhi che così spesso mi avevano dato la forza di continuare a sperare, penetranti, intelligenti e pieni di ottimismo. Quella sera, per la prima volta, li vidi invasi dalle lacrime. Suo malgrado, questa volta, angoscia e dolore avevano avuto la meglio anche su di lui. Solo allora la vidi. Vidi la corda che da tanto tempo mio papà aveva calato negli abissi della mia disperazione, aspettando solo che la afferrassi per poi tirarmi energicamente in superficie. ma l'attesa era stata troppo lunga e così aveva deciso di calarsi lungo quella corda, fino a dove sarebbe stato necessario. Non potevo tollerarlo. Mi ci aggrappai immediatamente a quella corda e mi arrampicai con tutte le mie forze mentre lui, dall'estremità, tirava con vigore. Sono risalita in fretta e ho imparato a ritrovare, di tanto in tanto, i colori allegri del mio vecchio mondo. Mi è rimasto dentro e mi dà la forza di combattere le avversità e assaporare tutti i bei momenti che sì, la vita, comunque, continua a regalare. The first time I ran away, I saw faces in the trees, I heard voices in the storm. Io sono personalmente molto affezionato alle storie come quelle di Barbara, perché sono delle storie che parlano di un pezzo di ognuno di noi, che parlano di un pezzo dell'essere umano, che è quello che in realtà ci tiene vicini tutti e ci fa sentire tutti uno vicino all'altro e in qualche modo meno soli. Sto parlando della vulnerabilità, al punto che in questi anni, da quando faccio questo lavoro, cioè da quando raccolgo le storie, da quando le racconto, le storie che mi sono più rimaste addosso sono proprio quelle che hanno affrontato questo aspetto, che non è un tema, la vulnerabilità non è un tema narrativo, è semplicemente un pezzo della vita che, diciamo, può venire fuori per argomenti più svariati. Spesso e volentieri mi torna in mente una storia, un episodio, e dico: ma questa storia dove l'ho vista? L'ho vista in un film o l'ho letta in un libro? E poi invece no, mi era semplicemente stata raccontata, esattamente come ha fatto Barbara. Pronto, ciao Barbara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Matteo e grazie. Senti, come stai innanzitutto? Come hai vissuto questo periodo di epidemia? Dove l'hai vissuto e come, insomma? Allora, io l'ho vissuto qui a casa mia, e io insegno, quindi ho dovuto fare questi video lezioni, quindi sperimentare un nuovo rapporto con i ragazzi, quindi nel complesso è stato interessante, faticoso ma interessante, nonostante tutto. Tra l'altro questa mattina sentivo un dibattito riguardo alla questione del tutti promossi e sentivo alcuni insegnanti che dicevano no, è un problema perché ci sono persone che non andrebbero promosse, e altri che dicevano ma alla fine in realtà come dire, chi non vuole studiare pagherà con, diciamo, sarà la vita che gli mostrerà il conto e non saranno certo i voti o l'essere promosso o bocciato. Tu come la pensi da questo punto di vista, da insegnante, Barbara? Ma penso che, visto il periodo complicato, vadano un po' aiutati, nel senso è difficile bocciare senza, con tutti i problemi, connetterle alla connessione, alla situazione difficile, perciò sì, penso anch'io che pagheranno il prossimo anno o se non hanno fatto quello che meritano, e quindi direi che, insomma, diamogli il 6 nella consapevolezza che i veri 6 non sono così autentici, ma loro lo sanno. Senti, invece Barbara, veniamo alla storia, che appunto è una storia molto intima e molto personale. Innanzitutto, il tuo papà c'è ancora, vero? È ancora qui con noi? Sì, ancora, con tutto il suo ottimismo e la sua voglia di vivere. E lo sa di questa storia? Sa che insomma, ce l'hai mandata e che viene raccontata alla radio? Non sa che ve l'ho mandata, no, ma devo dire, quando l'ho scritta gliel'ho mandata, gliel'ho dedicata, perché volevo che si rendesse conto di quello che, del ruolo così prezioso che lui ha avuto in quell'occasione. Perciò io ti ringrazio, perché non l'avrei fatto se non avessi avuto modo di ascoltarvi e di riflettere un po', di fermarmi a pensare a quello. Come l'ha presa? Come l'ha presa lui? Oh, lui si è commosso, penso che l'abbia preso come un grande bel regalo, si è commosso moltissimo e forse ha capito ancora di più quanto sia stato importante, che tuttora importante per me. Quindi è stata una bella esperienza anche per lui. C'è un'immagine bellissima che tu usi, parlando, che è una metafora, parlando di quella notte in cui lui viene e ti legge questa. Cos'era, un'enciclopedia medica, giusto? Era un, sì, era un'enciclopedia che era proprio in biblioteca. Sì. Quelle che giravano nelle case, anche mia madre ricordo comprava, ogni tanto andava a leggere delle soluzioni un po' fai da te. Insomma, l'immagine che ti dicevo mi ha colpito tantissimo è quella di lui che ti lancia una corda e aspetta e aspetta, e a un certo punto decide di calarcisi lui, e di venirti a prendere. È un'immagine magnifica che riguarda proprio il concetto di non lasciare sole le persone, anche se che in questo caso è una figlia, quindi è diciamo, il grado di emotività è altissimo, però non solo con i figli, ma in generale con gli esseri umani intorno a noi, anche nei momenti così difficili, oppure penso anche solo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che può sembrare non c'entrare nulla, e in realtà il fatto di lanciare una corda e poi avere il coraggio anche di calarcisi è un atto umanamente altissimo, è un atto che trovo abbia una nobiltà potentissima, e che con te ha funzionato decisamente. Cioè tu da lì in avanti, a proposito di linee d'ombra, tu ricordi proprio che da quella sera tu hai cominciato a rivedere il tuo modo di immaginare la vita? Ah sì, è stata una cosa proprio improvvisa, diciamo, in azione, vedere la sua disperazione, che io non l'avevo mai visto, nei suoi atteggiamenti, era sempre coraggioso, e mi ha davvero aperto gli occhi, sì, è stata una cosa quasi improvvisa, per cui mi resta impressa nella testa, sì, perché è stata davvero una rivelazione improvvisa, sì. Quello che mi stava succedendo e che ho causato a loro, il dolore che gli avevo provocato. Senti, tu hai un figlio, giusto? Sì, Simone, sì. Ho un figlio. Sì. Quanti anni ha? Adesso ha 13 anni, quindi un'età, appunto, è quello il periodo difficile, quindi faccio molta attenzione a lanciargli i messaggi giusti. È sempre stata la mia preoccupazione questa. Che tipo è tuo figlio? Che ragazzo è? Oh no, boh, è molto diverso, ama il cibo per fortuna, è abbastanza, non è molto sportivo, è questa forse la differenza. Io amo lo sport, e per me è una fonte, mi ha fatto passare dei momenti davvero felici anche dopo la riscoperta dell'imperfezione che ti circonda, e a lui manca questa passione un po' più, però mi piacerebbe, è sereno nel complesso, è sereno, sì. Barbara, ti ringrazio davvero per la serenità e l'onestà con cui ci hai raccontato questa storia, e per le chiacchiere di questa telefonata. Quindi ti faccio un in bocca al lupo e a presto, grazie, grazie a te. In qualche modo. Grazie a te. Grazie a te. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. You look like grazie davvero a Barbara per averci raccontato questa sua linea d'ombra così chiara, così precisa e tutta concentrata in una notte in cui suo papà entra in camera e le legge che cosa le sarebbe potuto accadere se non avesse smesso di fare quello che stava facendo, cioè di non mangiare. Grazie davvero, continuate a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo di nuovo qui a raccontare una storia che ha perfettamente a che fare con il titolo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. Moltissimi probabilmente hanno visto il film e quasi tutti conoscono la storia del cane Hachiko. È una storia vera che è stata raccontata in un film con Richard Gere, la storia di questo cane che in Giappone è andato ad attendere il suo padrone anche quando il suo padrone è venuto a mancare. È andato ad attendere alla fermata della metropolitana, perché lui da lì prendeva il treno per andare a lavorare e lì tornava. C'è anche una statua oggi del cane Hachiko che in Giappone, che a Tokyo per l'esattezza, è stata posta, se non ricordo male, nella piazza di Shibuya, però non vorrei dire una stupidaggine, per ricordare la storia di questo cane. Ebbene, quando si racconta invece la storia che stiamo per raccontarvi, la storia del cane Fido, la si racconta come la storia dell'Hachiko italiano. E noi ogni tanto, insomma, a me personalmente, forse perché ho un cane un po' di più rispetto al resto della redazione di Linee d'Ombra, che invece di cani non ne ha, hanno tantissimi figli ma meno cani, a me piace raccontare le storie di animali, e questa è una storia a cui tengo molto, che comincia così. Una sera d'inverno nel 1941, un uomo residente a Luco del Mugello, Carlo Soriani, operaio alle fornaci Brunori di Borgo San Lorenzo, trovò in un fosso un cucciolo di cane ferito. State con noi. Quel cucciolo era un bastardino bianco con macchie nere. Carlo Soriani lo portò a casa e lo adottò, dandogli il nome di Fido. Una volta guarito, il cane si affezionò talmente al suo proprietario che ogni mattina alle 5:30 lo svegliava e insieme andavano alla corriera. Alla sera, alle 19, il cane era lì, in piazza, che lo aspettava. A volte Carlo scherzava, non scendeva dalla corriera. Il cane fedele saliva e lo andava a cercare, nascosto dietro il sedile. E questo per 2 anni interi. E questo è Fido, un cane nostrano fedelissimo, forse il più fedele di tutti i suoi simili, che per 5.000 volte ha atteso invano il suo padrone. Ogni giorno egli compie, ancora oggi che è pieno di vecchiaia e di acciacchi, il lungo percorso che era per lui abituale. Ogni sera egli, che era stato raccolto ancora cucciolo da Carlo Soriani, arrivava fino alla piazza di Luco di Mugello e là attendeva che giungesse la corriera da cui scendeva il suo padrone. Il 30 dicembre del 43, in piena guerra, Borgo San Lorenzo fu oggetto di un violento bombardamento alleato. Anche le fornaci Brunori furono colpite e molti operai, tra cui Carlo Soriani, morirono. La sera stessa Fido si presentò come al solito alla fermata della corriera, ma ovviamente non vide scendere il suo amico. Gli operai scesero in silenzio, con facce pallide. Fido esaminò uno ad uno tutti i viaggiatori, poi saltò sulla corriera e invano cercò, fra i sedili, Carlo Soriani. Tornò a casa da solo, e la famiglia capì che Carlo non sarebbe più tornato. In pochi giorni, nella piazzetta di Luco, tutti iniziarono a notare questo cane fedele che aspettava qualcuno. Da allora puntualmente ripeté ogni pomeriggio per quasi 14 anni questo suo viaggio da casa alla piazza. Fido non volle arrendersi alla realtà, ed ancora oggi ogni sera è puntuale all'appuntamento con la corriera. Osserva i passeggeri che scendono, e quando il grosso carrozzone è ormai vuoto, egli lancia un'ultima occhiata delusa e accorata. Anche negli ultimi anni di vita, quando le zampe non lo sorreggevano più, con gli occhi annebbiati e le orecchie ciondoloni, Fido, il cane fedele, era sempre lì, ad aspettare. 4 cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà e semina i figli nel mondo. Perché è del mondo che sono figli, i figli. Il sindaco di Borgo ordina un giorno che Fido sia esentato dalla tassa sui cani e che possa circolare liberamente senza museruola. Il 9 novembre del 57 il cane viene premiato con una medaglia d'oro durante una cerimonia in comune, alla presenza di molti concittadini e della commossa vedova Tisoriani. Nel medesimo anno il comune di Borgo San Lorenzo decise di omaggiare Fido con un monumento costituito da un basamento in pietra sovrastato da una statua in maiolica raffigurante proprio il cane fedele, realizzata da uno scultore siciliano, Salvatore Cipolla. L'opera è nota come Monumento al cane Fido, è stata collocata in Piazza Dante, accanto al Palazzo Comunale. Sul basamento capeggia la dedica a Fido, esempio di fedeltà. Il monumento venne inaugurato alla presenza dello stesso Fido e della vedova di Carlo Soriani. Pochi mesi dopo l'inaugurazione, la statua in maiolica venne distrutta da chi si riteneva infastidito dall'eccessiva notorietà del cane. Il comune decise allora di sostituirla con una in bronzo, collocata, come la precedente, sopra al basamento con la dedica. Il cane Fido morì il 9 giugno del 58, 62 anni fa. La notizia fu diffusa al pubblico dal quotidiano fiorentino La Nazione con un titolo a quattro colonne. Il 22 giugno, la domenica del Corriere, commemorò Fido con una commovente copertina firmata da Walter Molino, che ritraeva il cane fedele in punto di morte sul ciglio della strada, con la corriera che ogni giorno attendeva sullo sfondo. Quando morì, a Fido venne celebrato il funerale, fu accompagnato da un corteo silenzioso, avvolto da un lenzuolo bianco, fino al cimitero di Luco, per permettergli di ricongiungersi finalmente con il suo amico Carlo. Fu sepolto all'esterno del cimitero. La tomba di Fido è stata ristrutturata di recente grazie ad un progetto scolastico di una classe di Luco. La persona che ha di fatto realizzato i lavori è il papà di uno dei bambini della classe. Sulla lapide di marmo è riportata la frase originale che dice così: «Sotto questa terra, la pietà mugellana ha raccolto le povere ossa del cane Fido, il cui nome volò per il mondo a simboleggiare una cieca fedeltà non troppo comune fra gli uomini». Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri son cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi. Di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Se togli il cane, escluso il cane, non rimane che gente assurda. Le loro facili soluzioni, nei loro occhi c'è un cannone, è una disinti riflessione, e tu non torni qui da me, tra me, perché non torni più da me. Questa storia l'abbiamo raccolta un po' qua e là, avete sentito gli audio, era un servizio del telegiornale, lo potete trovare, se cercate su YouTube trovate tutto il servizio completo, trovate anche le immagini di Fido che va alla Corriera e di Fido che viene insignito della medaglia al valore, insomma ha un'aria un po' perplessa in quelle immagini, cercatele. E oltre a lì abbiamo trovato un pochettino di documentazione su questa storia su un sito che si chiama ilsegnodifido.it, l'aveva scritto Gabriella Di Marco, è un'associazione cinofila, se avete voglia andate anche sul loro sito perché fanno delle cose molto molto interessanti, soprattutto se amate i cani. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con i diari della ripartenza. Linee d'ombra. Per il diario della ripartenza di oggi abbiamo una storia di Alessio che racconta di un timore. È un timore, ce ne sono stati tanti di timori quando abbiamo cominciato ad uscire di nuovo. Uno era la paura del contagio, ovviamente, altro era la paura di non ritrovare il mondo là fuori come l'avevamo lasciato. Quella di Alessio invece è una paura che ha a che fare con il sostenere lo sguardo, cioè la paura di non riuscire a reggere lo sguardo delle persone. E lui ce la racconta molto bene e chiudo con una lettera che ha mandato ad una sua amica. Se volete mandare la vostra storia, il vostro diario di ripartenza, l'indirizzo è sempre quello, lineedombra@radio24.it. Se dovessi raccontare il mio diario della ripartenza, partirei con la parola paura che ho avuto nell'uscire di casa il giorno 4 di maggio. Ma non era tanta la paura di essere contagiato a prevalere, quanto la paura dello sguardo. Ora vi spiego. Sono sempre stato un po' timido, silenzioso, ma un maggior difetto è quello di fare fatica a tenere fisso lo sguardo delle persone per lungo tempo. Non lo so, mi è difficile. Una volta un vecchio mi disse che si cresce quando si impara a guardare negli occhi, o una roba simile, ma non è così facile per me. E quindi la paura che avevo era di non sapere tenere lo sguardo delle persone che avrei ritrovato dopo il 4 di maggio. Ho immaginato lo sguardo di tanti che avrei incontrato, lo sguardo dei miei parenti di Milano falciata dal dolore, lo sguardo di amici piegato a terra dalla notizia di aver perso il lavoro, lo sguardo dei miei nonni fatto di sorpresa nel rivedermi, o lo sguardo di mio fratello sognante che parte in missione umanitaria, lo sguardo di una donna di cui ti innamori e tanti altri. Ho immaginato di provare a recuperare quel momento in cui due pupille a distanza di un metro si fissano per la prima volta, e così ho scritto una lettera che ho donato agli amici la sera del 3 di maggio, dove descrivevo questa mia paura. Se li avessi incontrati, avrebbero capito, o almeno, meglio, compreso il comportamento davanti ai loro occhi. La lettera è stata ispirata dallo sguardo di una mia amica che avrei voluto ritrovare, ma in quello sguardo, negli occhi di Flavia, ci sono tutti gli sguardi a cui io voglio bene. La lettera diceva così. Ciao, amica mia. Domani il governo dice che ci possiamo incontrare e tra gli amici ho pensato a chi io volessi per primo ritrovare. Ho pensato come sei cambiata, se i tuoi capelli sono cresciuti o li hai tagliati, se i tuoi sogni anche loro sono diventati più alti o si sono scalfiti sotto il vento dell'incertezza. Ho pensato alla tua voce, al desiderio che ho di ritrovarla, al suono, alla sua frequenza, chissà se è ancora allineata alla mia. Poi ho pensato al primo momento che incrocerò di nuovo il tuo sguardo, a quanto pudore dovrò avere nello sfogliare di nuovo i tuoi occhi, se ci troverò dentro un dolore, una paura, una gioia e se tu vorrai concedermela o meno. Ho pensato anche al modo di abbracciarti e al fatto di non poterlo fare. Allora ho immaginato di regalarti un pupazzetto. Se lo accarezzerai con lo stesso affetto d'amicizia che hai per me, sentiremo il nostro calore umano. Ciao, amica mia, ti saluto con tutto l'affetto che ho e avrò per te. Ci vediamo domani lungo la linea che unirà i nostri occhi. Tuo, Alessio. 3 maggio 2020, Gioia del Colle. Siamo arrivati a un punto della nostra storia seriale, quella che Mauro Pescio ci raccoglie e ci racconta, in questo caso insieme a Silvia Bencivelli. Silvia Bencivelli è una giornalista scientifica che viene insultata solo per aver cercato di aver pubblicato un articolo in cui smontava le teorie complottiste delle scie chimiche. Ecco, siamo arrivati a un punto di questa storia che è il punto focale. A un certo punto lei comincia a ricevere messaggi, minacce velate, però tutte che sono difficili da denunciare, perché c'è di mezzo la polizia postale, perché ci sono di mezzo dei server che stanno chissà dove, eccetera eccetera. Ma a un certo punto, e questo è il punto, succede qualcosa di diverso, e cioè qualcuno dal proprio profilo YouTube, con la propria faccia, con la propria voce, con il proprio nome, dice qualcosa che non suona, che è a tutti gli effetti una orribile minaccia. Succede che questa persona che aveva scatenato lo shitstorm si diverte in un qualche modo a modularlo, no? Tipo dice adesso tutti così, adesso tutti così, una specie di gioca giuè, capito? Sui social tutti contro di me in varie maniere, no? Guardate cosa ho fatto, guardate, quindi giù i fotomontaggi, oppure giù a prendersela con qualcosa che avevo fatto nel mio passato e così via. E a un certo punto cominciano a caricare dei video su YouTube in cui compare la mia faccia, in cui si raccontano cose di me, eccetera. Video noiosissimi, fatti veramente male, e in cui però a un certo punto finalmente arriva il reato. Lui in persona, mettendoci la faccia, dice così: io non capisco come possa la Bencivelli permettersi di dire ste cose. È una ragazza, anche una bella ragazza, e se qualcuno se la va a prendere sotto casa, fa bene. Ecco, a quel punto per me è stato possibile denunciarlo, perché lo ha fatto col suo nome e con la sua voce sul suo canale YouTube, quindi l'identificazione del reo non richiedeva le rogatorie internazionali e su sta cosa si è potuto procedere. Ecco, questo che state per sentire è l'audio originale, ancora oggi reperibile su YouTube. Ecco, ma qua addirittura arriviamo poi alle cose assurde, perché la Bencivelli, sempre in quell'articolo pubblicato in prima pagina, dice che lei è stata bersaglio di centinaia di mail contenenti insulti e minacce. Io mi chiedo, ma l'insulto è la minaccia più grande, non è quella che subiamo noi? Esatto. Cioè, allora, se la gente non ha la possibilità di esprimersi, non ha la possibilità di parlare con nessuna autorità, nonostante ha capito quello che è, ma questa signora che scrive delle robe veramente senza dimostrare niente e sta insultando la nostra intelligenza, ma voglio dire, ma che si aspetta? Si aspetta di essere benedetta? Come la vedi tu questa cosa, Rosario? Ma io, se vedo Attivissimo, penso che sia uscito da un film del terrore, quindi mi va benissimo anche che faccia disinformazione bieca e di basso rango. Se però questa disinformazione viene fatta da una donna, tanto più con laurea in medicina, è anche una bella donna, devo dire, allora questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché tu dico, sei una donna, puoi essere una mamma, o sei già una mamma, non lo so, con quale faccia puoi guardare i tuoi figli se nascondi una verità del genere? Quindi, in più sei una laureata in medicina, quindi dovresti anche capire quali sono le conseguenze a livello di salute per certe situazioni. Quindi la cosa mi dà fastidio da quel punto di vista. Poi, che lei si lamenti del fatto che la gente l'abbia insultata, ebbene, se lo merita, perché la gente oramai è stanca di questi personaggi e reagisce come si reagisce quando vieni attaccato e in più preso per il culo. E in più minacciato da queste scie, perché certo, le scie sono una minaccia reale, non sono qualcosa di teorico. Quando normalmente si viene insultati continuamente da questi personaggi, cosa faccio io? Mi vado a lamentare con un articolo sulla stampa? Quindi noi cosa dobbiamo fare con questi personaggi qua? Io, come minimo, se becco un personaggio del genere e ce l'ho di fronte, una bella mazzolata di botte gliela do. Scusa, perché io ormai sono arrabbiato. Ma guarda, e allora la Bencivelli che cosa vuole? Se qualcuno la va a prendere, fa pure bene. Quando ho sentito ste cose, erano passati 2 giorni. Ero a Bari a fare un lavoro per l'università con amici e mi arriva la segnalazione da parte di un amico di Roma. Ero nella fase in cui tutti mi dicevano solo di stare calma e più me lo dicevano e meno riuscivo a stare calma. Ho aperto il link per vedere sto video insieme a un gruppo di amici dell'università di Bari e quando arriviamo a queste frasi mi sento un brivido di freddo sulla schiena, perché era una minaccia di stupro indirizzata a me. Era il 2013 e non se ne parlava ancora tanto, e poi ovviamente io non ero abituata a quella roba, perché io, sai, scrivo di scienza, quindi fino a poco tempo fa scrivevo di cose che non erano esattamente la prima pagina. Poi vabbè, ora la scienza è in prima pagina, è il nostro, insomma, nostro malgrado, e quindi non ero nemmeno abituata a avere tutta questa esposizione così, diciamo, anche così battagliera, capito? Insomma, c'erano stati dei casi, periodicamente ci sono i casi tipo di Baristamine, eccetera. Però lì c'è qualcosa. Qui invece non c'era dietro niente. Non scoperte, non truffe, non persone che soffrono. Non c'era niente. Non si capiva perché ce l'avessero con me. Era grottesco. Ce l'avevano con me per una cosa che non esiste, che ognuno di loro interpretava a modo suo. Perché poi erano tutti leoni da tastiera, però te lo dico nel 2020 che erano leoni da tastiera, perché in quell'ottobre del 2013 non bastava uno un po' più concreto che davvero venisse sotto casa mia, che non si limitasse a mandare un'email per mettermi nei guai seri. Grazie ancora a Silvia Bencivelli per raccontarci la sua storia. Domani ovviamente continuiamo. Voi mandateci le vostre storie che hanno a che fare con un confine, con una linea d'ombra oppure con un diario di ripartenza. Se vi va, lineadombra@radio24.it. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo a raccontare domani puntualissimi alle 13, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!